ci siamo per una questione, dato che noi dopo dovremo sentire tutte le registrazioni e non essere troppo lunghi, abbiamo dato, se a te non dispiace, un tempo di 5 minuti di risposta per ogni domanda. Sì, ma potete interrompere, te lo diciamo. Puoi interrompere se io, nel senso, faccio un appunto se non sono spiegato, però altrimenti magari cerco di essere conciso. Si quello che si no, perché abbiamo visto che le domande essendo tante, più o meno si arriva a un'ora di intervista. Sì, no, non lo so, io cerco comunque di semplificare, spiego, magari se non, non se devo chiarire qualcosa, però voi potete sempre dire taglia, cioè nel senso ci siamo capiti, sono indicazioni di massima, chiaramente. Dico, voi potete parlare, no, quando state registrando. No, ci siamo, bene, spiega tu. No, vabbè, rispetto alla registrazione, la parte della domanda e la risposta, tra l'una e l'altra magari di lasciare un po' di silenzio per non tentare di non accavallare le voci. No, perché se vi voglio chiedere, se poi voi vi devo chiedere se mi sono spiegato, no? Voi mi rispondete, nel senso che... No, allora, vado deve a... essere, sì, allora, è una cosa molto tranquilla. Vabbè, tanto senso noi che partiamo, caso mai... No, ma è, allora, tu, è semplice, io ti faccio una domanda. Poi dalla domanda che ti faccio, sono domande semplici, molto... No, no, figurati, non lo so. Sul fatto della... Noi possiamo pure prima di partire, ah, ok, vabbè. Pure sul fatto di dire, non mi sono spiegato, tu parla, vedi? Sì. Vuoi l'intervista di nuovo? Grazie. Aspetta, Yuri là, parla. Poi, se sta la domanda che ti farà, diciamo, venire da dire le cose in un modo molto più, diciamo... regolare, poi lineare, capito? Ci sono delle domande molto semplici, facili, non è che su chissà che. No, comunque erano delle indicazioni di massima. Più che altro tecniche, non diciamo sul contenuto, su quello che puoi dire, che è libero, chiaramente. Quindi allora, tu quando sei pronto, mira, metto il logo, no? Grazie, vediamo su. Perché tu sei il terzo intervistato, giusto? Si dice qualcosa? No. Andiamo. Ma non vale. Fai tu l'introduzione? No. Giulia fa. Introduci. Cosa? Dai, Livia. Vai. Ok. Siamo qua a casa mia, ci sto io, Libera, Vincenzo e Salvatore di Siena, agricoltore. Salvatore, buonasera. Buonasera. Allora, se possiamo iniziare questa intervista dicendo tu chi sei, come ti chiami, diciamo la tua età, gli studi fatti, presentati. Allora, mi chiamo Salvatore di Siena, faccio l'agricoltore, ho diploma di tecnico industriale, quarto anno di agraria non finita, beh, poi stiamo qua. Allora, parlaci un po' anche del tuo percorso familiare. Sì, i miei genitori sono, cioè erano agricoltori, ma stanno, cioè uno, ce n'è uno solo, se mia madre sta in pensione, quindi io nasco come agricoltore proprio, e poi mi appassiono, cioè la mia è una passione che porto avanti. Prima, vabbè, i genitori miei erano naturali, poi esce la chimica, portano a chimica, anch'io faccio chimica, poi però non mi stava bene e la porto in agricoltura naturale e quindi vado avanti con l'agricoltura naturale. Da quanto tempo fai l'agricoltura? Da sempre, da 40 anni. Ma già insieme ai tuoi genitori? Sì, insieme ai miei, sempre. E com'è stata l'esperienza, diciamo, con i tuoi genitori, lavorativamente parlando? No, abbastanza bene, vabbè, come al solito, quando sei giovane non ti trovi più di tanto, però loro vendevano all'ingrosso e poi comunque quando mi sono fatto più grande siamo andati, cioè ho fatto prima mercato ambulante, sempre insieme a mio padre, e poi andavo solo io al mercato ortofrutticolo generale per una ventina d'anni e poi comunque ho lasciato perché non valeva la pena. Ho iniziato nel 2006 a lasciare quella chimica e iniziare quella organica. E questo è, cioè, nel senso. E tu, oltre all'agricoltura, cioè il lavoro in campagna, fai anche altre cose oppure ti occupi solo di coltivare? Mi occupo solo di coltivare, però vabbè, c'ho tante passioni, nel senso che questo può essere la risposta di fare anche altro, visto che con l'agricoltura naturale non è riconosciuta alle nostre parti, perché dicono non è possibile che tu fai un'agricoltura pulita qua nella zona che sono inquinate, e quindi poi non c'è un ritorno, diciamo, la gente non ritorna perché magari va al supermercato per comodità, ci sono poche persone che vengono, ti seguono, no? Che sono appassionate di agricoltura naturale, cioè basta assaggiarla e si vede la differenza, e poi chi la fa seriamente penso che comunque si vede. Ricordaci in che zona ti trovi tu come... Allora, io sto ad Acerra, contrada San Nerito, comunque una zona abbastanza... cioè questo terreno è di famiglia, quindi sono qua, penso, sì, diciamo una quarantina d'anni, non so se di più o no, che è nostro, quindi non c'è niente in quella zona. Ho fatto gli analisi sia per conto mio, poi con zooprofilattico di Portici, era uscito buono, non c'era niente, sia all'acqua, sia alle verdure, e sia al pozzo, cioè nel senso, sì, anche terreno, comunque risultato molto più fertile di tutti quanti. La differenza della modalità di agricoltura che fai tu con quella che hanno fatto i genitori, oltre ad essere il discorso sulla chimica, come si può differenziare? Vabbè, si differenzia per tante cose, anche, non lo so, cioè nel senso, io ero troppo giovane per capire, i miei genitori, se, come dire, io l'agricoltura è diverso la mia, perché cioè ha la sensibilità verso le piante, quindi penso che sia un'agricoltura diversa, cioè nel senso che ho conoscenze, io ho conoscenze, non mi affido molto a me stesso perché ho studiato, nessuno conosce quello che so io, quindi nel senso conosco biodinamica, sinergico, agroforestazione, che ne so, cioè anche altre non mi viene in mente, però cioè, c'è una conoscenza e scelgo io quale portare avanti, quindi ovviamente è differente, è un'agricoltura consapevole, diciamo. Che tipologia di forma giuridica hai tu? Sei un contadino, un agricoltore, azienda agricola, cosa sei? No, purtroppo con diciamo il ritiro dei miei genitori e la morte di mio padre è stata chiusa l'azienda che c'era, quella là che vendeva all'ingrosso e a dettaglio era tutta inquadrata. Poi dopo, cioè nel senso, questa qua è di nicchia, non funziona, non mi posso permettere di andare, cioè non ce la faccio a pagare i tassi, perché lavorava insieme, non so, posso nominare a Mario Infante, che lui era coltivatore, io bracciante, per lavorare insieme tutti inquadrati, lui ha chiuso perché non riusciva a pagare nemmeno i contributi, quindi alla fine, vabbè, poi è un campo mio sperimentale, quindi sto sperimentando di portarlo avanti e migliorarlo, cioè poi questo è, cioè, nel senso, sono fuori dal circuito legale, diciamo. Cioè quanta terra hai disponibile? Poi allora sono 5200 metri quadri questo qua da Acerra. Di tua proprietà? Di mia, di mia, familiare, non è mia, non c'è niente, familiare, non è diviso, quindi io ho pochi metri facendo la divisione in 6, cioè con tutta mia madre viva saranno 400 metri, nel senso di proprietà ereditate dalla morte di mio padre, quindi siamo ereditari un po' di terreno. In realtà tu cosa produci? Tutti ortaggi, sia locali che nazionali, esteri, tipo la batata che viene dall'Africa e dal Sud America, mi sembra comunque. Poi, beh, il topinambolo è di qua, che era, vabbè, toscano, il cavolo toscano che è molto, si usa in Toscana, e poi vabbè, la rapa rossa, parecchie varietà, comunque a me nel listino ci stanno appieno 35 prodotti, quindi sono uno dei più completi, però io sfotto un po' a libero e dico che i napoletani vanno a salsicce e fririello, che poi si localizzano e mangiano sempre le stesse cose, E quindi questa. Diciamo ortaggi, la maggior parte. Sì, è solo ortaggi, sì, frutta. Solo quella... E i tuoi metodi, dicevi? Sono un po' conoscente la biodinamica sinergica, quindi cioè, faccio aumentare l'humus a terreno gradualmente, potrei usare micorizie che sono ancora più potenti, però stavo cercando di farlo aumentare da solo. Se riesco a fare gli analisi e poi magari posso procedere con le micorizie, perché comunque, cioè, diciamo che organica, cioè micorizie organicano, se il terreno magari ci stanno dei metalli pesanti come residuo, non so, li rendono più organico, quindi non, la tossicità non va a finire proprio sulle verdure, quindi queste sono conoscenze, cioè, che ho acquisito io, non credo che tutti quanti possano avere questo livello, non ci arrivano proprio, cioè, nel senso che io ho studiato e quindi posso pure farlo, se ho le analisi alla mano posso procedere con le micorizie per neutralizzare anche i metalli pesanti, diciamo. Questa, cioè, l'agricoltura è sicuramente diversa. Oltre alla coltivazione, ti occupi anche della trasformazione? Sì, quest'anno trasformazione, però diciamo vendo a solo agli amici perché non c'ho un laboratorio, quindi è fatto in casa. E sì, perché è un peccato poi buttarla dopo tanta fatica, infatti, cioè, nel senso che ci vorrebbe un laboratorio. È l'unica soluzione per non buttare quando alcuni prodotti pregiati, diciamo, tipo melanzane, cavolfiori, peperoni, poi il resto può andare da concime e terreno senza problemi. E in che modo poi fai la trasformazione, oltre al fatto di farlo in casa, sott'olio, sott'aceto? No, sott'olio, principalmente sott'olio. Che vendi poi solo a stretti? Sì, conoscenti, solo quel stretto dove dico controllate bene, poi non lo metti in commercio, diciamo, perché non voglio dire, la sicurezza non ce l'ha al 100%, anche se potrei, come dire, crescere di più, prendere i tappi, magari quelli là, click e clock, vedere, cioè, nel senso che se è sotto vuoto si vede, no? Nel senso, potrei mirare su quello che poi si capisce quando c'è un sotto vuoto. E questa realtà agricola che tu gestisci lo fai da solo? Sì. Oppure con un aiuto, un supporto di qualcuno ogni tanto, oppure della famiglia? No, faccio tutto da solo, tanto ce la faccio. Il problema è vendere, non è produrre. A me il problema è vendere. Parlaci un po' del fatto della tua realtà agricola, nel modo proprio del perché lo fai, quanto ti piace, racconta un po' questo aspetto, che è anche un po' più al di là del fatto che è solo il lavoro fisico fatto in campagna, anche un aspetto un po' più, diciamo, di pensiero tuo. Sì, no, non è un lavoro fisico, ce l'ho fatto in campagna, cioè questo è fatto con consapevolezza, cioè nel senso convertire il terreno, cioè rendere un prodotto migliore in qualsiasi zona dove si sta, cioè fatto con consapevolezza, coscienza, cioè è tutto un altro, e poi artigianale, è tutto un altro prodotto, cioè non come posso dire, non è come i prodotti locali, cioè non c'hanno niente a che fare, perché è uno studio, cioè il mio campo è non solo insieme a un medico, è un campo eubiotico, ma è un campo anche sperimentale, personalmente, come la mia vita è sperimentale, di migliorarlo, cioè accompagnarlo, e poi magari, visto che c'è la crisi in questo periodo, ho sperimentato per 18 anni e non ad Acerra, non hanno ancora paura, hanno molti pregiudizi, quindi mi sa che andrà a finire, perché se ancora oggi ci esiste questa cosa, quindi ho difficoltà, e poi, cioè, il guadagno non c'è, non posso nemmeno analizzare io. Per analizzare i prodotti devo chiedere a chi compra di mettere un contributo per analizzarli, visto che non si fidano, vediamo, cioè nel senso che se il prodotto non escono buoni io mi fermo, non è che voglio coltivare, cioè io so che quelli sono buoni, qualcuno mi dice, tipo Mario Infanti, dice non hai paura, no, io do il 100%, se poi non sono io responsabile, quindi non è colpa mia, siete voi, questi devono intervenire, anche chi mangia, ma a livello istituzionale, nazionale e internazionale, perché non si può, in un posto che come dire, che il terreno buono è fare una cosa del genere, non ha senso per me, quindi io faccio la mia parte, quando poi non vale la pena perché nessuno ti capisce, quindi non posso fare più niente. Raccontaci di questa realtà del campo eubiotico che ti ho sentito nominare. Sì, un medico urandrologo ha fatto un progetto tramite lo sperma maschile, controllava l'inquinamento ambientale e con mangiare sano contrastava l'inquinamento ambientale, quindi io per conto mio, lui per conto suo ci siamo conosciuti e abbiamo deciso, cioè lui poi ci teneva perché lui è di Acerra, a fare un campo eubiotico in mio ad Acerra proprio su questa cosa, cioè nel senso che ad Acerra non è tutto, cioè l'inceneritore diciamo non dovrebbe danneggiare più di tanto e poi tutto il resto appresso, questo campo conferma questa realtà che non è tutto perduto, diciamo che c'è una parte buona, ma come tutte non esiste la parte che è tutto tossico, perché altrimenti saremmo messi male, nel senso che la terra dei fuochi alla fine si sta rigenerando perché comunque, come dire, ha preso consapevolezza del fatto che si incendiavano i fuochi e gli scarichi tossici, quindi mi sembra che si è fermata questa cosa qua, quindi cioè questo rilasciando al di là del progetto di questo medico, quindi è questo. Allora, stavo facendo una ricerca poi anche più approfondita su questo aspetto o si ferma solo al fatto del mangiare? In che senso? Nel senso che la ricerca, lui è una ricerca che sta facendo o uno studio? No, lui sta facendo una ricerca ma sull'essere umano, però sia su maschile adesso femminile, però per contrastare, cioè voglio dire, lui la visione sua è non curare con la chimica ma curare con le verdure, con il mangiare, diciamo, con mangiare sano perché sono disossificanti, tipo la torsella, sono antiossidanti tanti prodotti, e cappuccio rosso, cioè ci stanno tutti i prodotti, ci vorrebbe una sede a parte per dire tutti gli antiossidanti, cioè le verdure, quelli il contrasto, cioè le verdure fanno bene all'essere umano se sono prodotte naturali e non sono danneggiate chimicamente, quindi le verdure è quella che poi risana l'essere umano, diciamo, bonifica. Secondo te quali sono le sfide principali nell'agricoltura? Stiamo parlando sempre di noi o a livello anche di... Tuo. Vabbè, le sfide sono sempre quelle di riuscire a far valicare i pregiudizi delle persone, perché le sfide sono solo queste, perché non vengono le persone, non lo so, cioè nel senso che vogliono la comodità, quindi non vedo le persone venire, vabbè, diciamo che forse Acerra, forse è questo, non le vedo di più perché comunque Acerra c'ha il bollino nero, diciamo, a livello, come dire, le persone sono state spaventate, quindi nessuno fa un passo oltre, non si fidano, diciamo. Secondo me il lavoro da fare è proprio con le persone, cioè uno analizzare se tutto è a posto, poi si deve lavorare sulle persone, vedete che poi cioè, avete i pregiudizi, sono tutti vostri, però comunque devono scegliere loro, quindi non possiamo fare nient'altro su questo. E secondo te che prospettiva ci può stare su questo argomento del fatto di delle sfide? Le sfide si possono vincere, basta, non lo so, pure le persone che vogliono, cioè sicuramente nel futuro dovrebbe essere questo, le sfide vanno affrontate, cioè nel senso che una sfida sì, perché non c'è nessun'altra possibilità, o le persone si svegliano e seguono le persone che, tipo come me, artigianale, cioè i costi sono elevati e la vendita è poco, non era paragonata, anzi io nascevo e ancora tutt'oggi portavo avanti di vendere i prodotti a buon mercato, cioè, ovviamente non posso scendere sotto un prezzo perché comunque sono di nicchia, però io non cerco di non alzare i prezzi come hanno fatto altri perché sono aumentate le materie prime, era questo, Quindi io non so più come fare, se le persone non sono interessate, perché ovviamente hanno paura, io dico sempre non devo fidelizzare, però comunque loro non devono avere pregiudizi, l'unica soluzione è quindi, cioè quando vengono coinvolte devono seguire, cioè nel senso vengono accompagnati e poi là viste se veramente ci tengono a... se vogliono far funzionare un agricoltore, come dire, lo devono sostenere, cioè anzi il progetto mio, che forse quello andrà avanti, è subordinazione, cioè io coltivo alle persone che sono interessate, così faccio prima, non sono impegnato inutilmente a lavorare, non conviene più, quindi la mia proposta è questa, le persone che vogliono si fanno gli analisi ogni tanto, periodico, e poi cioè pagano un tot mensile, che si può annuale, sì, io coltivo su ordinazione, non più così, non vale la pena più. Mentre quali pensi siano le sfide sul tuo territorio in generale, nella zona in cui tu vivi? In generale, nella zona non sono nel proprio del territorio, ma sono anche da fuori, non sono solo locali, ma con chi parli, cioè nel senso anche con Mario si ha difficoltà, perché nel senso che fanno fatica, perché hanno pregiudizi, nessuno va oltre, non sono locali, sono campani, diciamo, e la gente preferisce prendere i prodotti da fuori, magari chiudendo gli occhi e sperando che un prodotto sia migliore del mio, non lo so quanto sarà meglio. Posso fare un esempio: il medico, quando prendeva i miei prodotti, andava a fruttivendolo, io ho gli analisi a casa, là c'erano 5 residui di pesticidi, meno non c'era niente, era anche più ricco di antiossidanti rispetto quando vivo in una zona disagiata, i prodotti comunque sono più forti, li avevo analizzati quelli del cilentano, i miei prodotti erano più ricchi di antiossidanti, perché poi la zona, quando sono più resilienti, un po' come l'essere umano, non è che qua poi viene danneggiato più, a un certo punto nasce la resilienza, comunque devono vivere, quindi non c'è proprio tanto pericolo, secondo me. E le prospettive su questi argomenti della... quali sono, secondo te, possono essere? Prospettive riguardando cosa? Alle sfide sul territorio. Le sfide sul territorio, penso che si dovrebbe fare un po' di scuola, cioè nel senso coinvolgere, forse dalla scuola, forse dalle... sia insegnante, maestro, che non vedo nessuna possibilità, perché altrimenti rimaniamo là, cioè nel senso io non sono più, secondo me, infatti l'altra cosa che vorrei fare è insegnare, perché non, cioè potrei insegnare a dire, a far capire alle persone, non dovete aver paura, sì, questo è, cioè nel senso che la roba è buona, se viene fatta bene è buona, non c'è, secondo me non c'è nessun pericolo, e quindi le sfide sono queste, cioè come dire, accompagnare le persone a fidarsi di nuovo del territorio, no? Penso questo, secondo me, è l'unica via d'uscita, non ce ne sono altre, perché altrimenti penso che le persone vanno a comprare anche ai supermercati sperando che vengano da posti diversi sicuramente, e poi non è a chilometro zero, quindi in futuro penso che non sarà nemmeno accettato più, sarà vietato, perché verranno accettati più i prodotti a chilometro zero, se uno è interessato anche al risparmio energetico, all'inquinamento, secondo me dovrebbe funzionare questa cosa. Come sei arrivato al pensiero dell'insegnamento verso gli altri, e su quale, diciamo, tematica oppure argomenti la metteresti sopra questa forma? Ma un po' su tutto, cioè nel senso che le persone... a livello, vabbè, ma già che io sono cresciuto, quando sono nato, non li capisco i napoletani, cioè nel senso che pure io da piccolino andavo al consorzio, nessuno studia come me, io ho studiato, cioè nel senso studio medicina, qualsiasi cosa che mi capita studiando, gli altri non lo sanno, quindi non si fidano, quindi devo per forza passare allo studio, si devono accompagnare, e poi ovviamente alla mia età, nel senso che penso che non possa andare poi l'agricoltura diventa pesante, e quindi potrei insegnare, visto le mie conoscenze che non tutti hanno, cioè non solo conoscenze, io c'ho in più, cioè io non ho bisogno delle telecamere multispettrale, perché io vedo la linfa, vedo nelle verdure il fatto di essere vivo, vedo oltre, come dire, nel senso che vedo di più degli altri, no? Non so gli altri che cosa vedono, perché però sicuramente vedo parecchio, perché quello che mi gratifica è migliorare, cioè migliorare da quando sono partita adesso. Le verdure io fanno da sole, cioè io non faccio nient'altro, accompagno solo, non è che sto là dietro. E pensi che il territorio, diciamo, nostro campano sarebbe pronto a una cosa del genere? Ah, non penso di no, non credo, però non è, cioè si deve provare, non so, però non si sa mai, che magari vengono dal nord Italia, dall'estero, possono venire persone a studiare, a vedere, se gli altri non ci credono, i locali, magari forse potrebbe essere che da fuori vengono a studiarci, a dire, cioè nel senso che io sono aperto, possono venire ricercatori a vedere se quel campo veramente, questa zona, c'è contrasto all'inquinamento che c'è, nel senso che sono aperto a tutti quanti, cioè non è per forza sia regionale che nazionale che internazionale, non, io vedo tutto il mondo, per me è piccolino, quindi è aperta per tutti, non è una ricerca chiusa a pochi, è aperta a internazionale. Prima hai accennato, diciamo, in modo vago ai tuoi problemi, riesci un pochino anche a metterli in modo, diciamo, in una forma di elenco, i problemi e le problematiche che tu tieni nel tuo lavoro, nella tua attività? Per la vendita? In generale su tutto. Se hai un tipo, vabbè, io ho questo problema, questo problema, questo problema e questo problema, in modo, diciamo, un po' anche un po' più schematico. No, nel senso che i problemi sono per la vendita, che si è ristretta, dopo il coronavirus si è ristretta tantissimo. Ovviamente io non, cioè nel senso che non facendo una programmazione, può essere a me, insieme agli altri, perché io lavoro insieme agli altri che fanno pure le loro agricolture, quindi non vado, perché non voglio limitare gli altri, però questo è anche un po' uno spreco. E poi ovviamente le persone, comunque in primis che le persone comprano meno, non so, io faccio fatica a trovare persone nuove, anzi seppure vengono poi non ritornano più, cioè dopo un po' si scocciano, non lo so, un po' non si fidano, un po' si scocciano, un po' così, cioè i problemi sono questi, non, cioè posso elencare, ma non è di, cioè quello che manca è, manca la materia prima, mancano le persone che acquistano, cioè il problema mio principale è quello, non, e quindi ben venga le persone, nel senso che secondo me quello che devo fare è trovare le persone che sono interessate a questo tipo di agricoltura, e quindi penso che potrei risolvere il problema, non lo so, perché nel senso che si presenteranno sempre altri problemi. Quello che in questo momento è da maggiore è la carenza di persone che acquistano. E come, cioè, ti sei fatto un'idea di come poi poter superarli e affrontarli, questa piccola problematica che tieni in questo periodo? Ma io quello che sto facendo con te, Libera, che nuova situazione di Spence, è riuscire, non sappiamo come si evolva, ma prendere un gruppo con, come si chiama l'altra? Loredana, scusate, mi dimentico sempre, Loredana, che è interessata a questo tipo di agricoltura, non so, magari un gruppo suo si può, come di base si parte, che ne so, con siete interessati, allora pagate un tot mensile che andiamo avanti, e se nasciamo in una nuova forma, non so se mi sto spiegando, nasce una nuova forma di come dire, di agricoltura e di chi acquista i prodotti agricoli con una mensilità, con una spesa settimanale, e questo è. Perché tu pensi che è un po' limitato, diciamo, il fatto di fermarti solo a dire io coltivo bene, è un prodotto eccellente? Sì, penso che è limitante, perché non c'è un ritorno, non ci credono, il mio prodotto è veramente artigianale, io, a me quello che mi mancano sono solo gli analisi, voglio la certezza, perché io ho lavorato tantissimo, cioè per conto mio è una sperimentazione, cioè se non mi risultate, non torno quelli che io ho dato, non, in realtà non ci credo nemmeno, perché assaggiando le conserve che ho fatto, i peperoni sono eccezionali, io non lo so, mi può confermare Libra, cioè Vincenzo con me, possono dire loro qualcosa, quindi io non lo so, cioè non posso fare tutto io, non posso dire, come dire, vantarmi tra virgolette, essere presuntuosa, sono gli altri a dare il responso. Se devo chiudere, chiudiamo, non c'è problema per me, perché poi, come si dice, i risultati, le persone sono le testimonianze, sì, è vero, no, sta cosa. Vabbè, su questo aspetto possiamo testimoniare che i prodotti di Salvatore sono di non solo buoni, ma sono eccellenti, al di sopra della media, lo posso confermare. Ora andiamo un pochino più sul personale, nel senso che abbiamo parlato della realtà agricola. Quali sono le tue aspirazioni o i tuoi sogni? Beh, ultimamente non so, penso più di lasciare il terreno, quindi non lo so dove andrò a finire. Magari per adesso ci sto, ho fatto un corso di Reiki di primo livello, quindi forse continuo con il Reiki primo e secondo livello, che poi posso fare cioè divento un operatore olistico, e poi forse c'è un programma operatore per l'infanzia, quello là, per i giovani, secondo me possono essere risvolte, accompagnare questi piccoli in un mondo di, come dire, avere fiducia nella vita, no? A farle, come dire, non reprimere come in passato, perché le generazioni reprimono ancora, le generazioni vecchie secondo me reprimono ancora le generazioni nuove, e quindi ci vorrebbe una nuova visione nel cambiamento, quindi questo è. Sogni? Beh, sogni non lo so, nel senso che per adesso ci accontentiamo di vedere come si svolgerà questo, e poi magari un sogno, vabbè, potrebbe essere l'insegnamento nell'agricoltura, ma anche, vabbè, fare questo nel Reiki, cioè, e poi non lo so, quello che riusciamo a fare. Hai una visione sul lungo periodo? Scusami, puoi ripetere? Hai una visione sul lungo periodo della tua vita, oppure del tuo metodo di coltivare, produrre? Una visione nel senso che una prospettiva? No, nel senso, io adesso ti ho capito. Comunque, nel senso, adesso è un po' difficile, nel senso che con il mio percorso e cambiamento, quindi non lo so dove andrò, cioè l'indirizzo dove andrò a indirizzarmi è un divenire, quindi non saprei, quindi in questo momento non so, tra qualche anno, tra un po', magari quando iniziamo a indirizzarci di più possiamo dirlo, quindi per adesso ancora no. E cosa ti piacerebbe realizzare per migliorare un po' anche la tua condizione? Vabbè, realizzare nel senso che mi piacerebbe che le persone acquistassero, cioè infatti io invito sempre a venire nella campagna, no? Affidarsi e poi a venire, cioè io non sono per fidelizzare i clienti, voglio che girano, però sostenete, nel senso che potrebbe essere, questa è una situazione di sblocco forse abbastanza veloce, ma non so, non ci credo, perché le persone sono lente non a ricevere questi messaggi, penso che siano, cioè siamo sempre noi, come dire, addette a questa situazione tra di noi, ma le persone nuove fanno fatica perché c'hanno tutti i pregiudizi, e poi ovviamente, come dico io, ho fatto il mio, un percorso anche interiore, agricoltori come me che non hanno fatto un percorso come me, se ci manca il prodotto lo vanno a comprare come se non fosse niente, quindi so che dire, e quindi penso che anche sia l'agricoltore, ma sia anche chi acquista da noi, ma va a acquistare chimica o quella da un'altra parte come se non fosse niente, uguale, pensano che stanno comprando la stessa cosa, ma non credo che sia vero. Se si può analizzare il mio prodotto e vedere se riusciamo con la colletta ad analizzare i prodotti, a vedere che sono molto più ricchi, allora la differenza c'è, come magari fare anche quelli normali, quelli che vanno a acquistare ai supermercati le persone, e si fa un rapporto. E allora questo è, non dite Acerra è penalizzato, però Acerra ha queste caratteristiche, voi comprate questi prodotti, non lo so che volete voi, quindi studiate. Diciamo, da quello che tu racconti si capisce che hai fatto delle scelte molto ben radicate, molto ben fondanti, nel senso che ti sei scelto un percorso. Sì, mio, nel senso che è un percorso mio. Infatti io compravo le piantine bio a Nocera Superiore e le persone dicevano: ma tu vuoi cambiare il mondo, ti conviene andare a prendere piantine bio? Io ho fatto una scelta, io ci sono, la mia parte l'ho fatta, e quindi quelli che mancano, mancano gli altri. Io, cioè, nel senso che sono radicale, ma sono vero, perché voglio vedere i risultati, cioè non posso mediare, cioè, nel senso, ovviamente io non discrimino l'agricoltura anche chimica, non faccio discriminazione, ho preso il patentino, capisco le persone che non ci riescono e va bene, ma bisogna rispettare i periodi di carenza, i prodotti che non sono registrati su quel prodotto non si devono fare, e però quindi diciamo, per non perdere il prodotto lo usano, quindi sicuramente fino a quando non avranno il coraggio come me non ne usciranno, no? Non so se mi sono spiegato, cioè sono rigido tra virgolette perché ci tengo al risultato, cioè io faccio il massimo, quindi se non i risultati non sono quelli sperati, non viene da me, perché ho dato tutto, cioè non credo si poteva fare di più, più di quello non posso fare, quindi non proviene da me. Se hai fatto esperienze di collettivi, associazioni, comunitarie, quali sono state? Sì, no, ho fatto esperienze, faccio un esempio. Libera conosce Nicola Ciccarelli, gas alla tavola rotonda, lei era un gas e andava bene, io portavo i miei prodotti, però siccome dovevo lavorare di giorno andavo alle 9 di sera e tutto andava bene, però qualcuno si lamentava che era tardi, poi lui era un laboratorio, anche un'associazione culturale, un laboratorio di pane, quindi il giovedì avevo messo dalle mezzogiorno fino alle 8 di sera la consegna. Alla fine le persone non ordinavano perché dovevano venire a ritirare, era finito un mercatino, quindi quell'esperienza l'ho chiusa, me ne sono andato, perché non tornano, vogliono, ma non vogliono niente in realtà, cioè nel senso non sostengono, no, un gruppo acquisto solidale ha fatto questo, però era andato a finire al mercatino, venivano a prendersi il pane, io portavo le verdure in più e loro acquistavano, vendevo, ma non era un gas più. Poi vabbè, con comunità insieme a Mario Infante è andata benissimo, cioè, poi ci sono state delle divergenze mie che dovevano essere, cioè, comunque ho chiuso con Mario, ma per incompatibilità momentanea, diciamo, eppure quella, diciamo, è finita, perché sempre come dire, le persone, ma io do tanto, però sono quello che vuole stare sempre libero, perché infatti Mario dopo l'ha capito che davo di più io, che stavo fuori, perché lui vabbè, aveva un progetto suo e giustamente io, nel senso, non volevo essere coinvolto più di tanto, quindi cioè, ci siamo separati. E poi vabbè, comunitario, lavoro con Libera che tuttora ancora va avanti, con Ciro va avanti, però sempre ci sono problemi, perché comunque cioè emerge quando un prodotto non è buono, ma io ovviamente non sto dentro che tipo un cespo di incappucciata d'estate che comunque può marcire dentro una verza che marcisce, lo fanno a cappuccio, lo fanno, io tendo a dare di più i prodotti, e me lo possono confermare Libera e Vincenzo sempre, proprio per evitare questo problema. Però c'è chi dice: no, io ho programmato questo e volevo quello, ma non si può fare, cioè, voglio dire, non è questa agricoltura, cioè non funziona, se dovesse funzionare un prodotto deve uscire perfetto, non è quello che garantisco io, cioè nel senso, se non è buono io cambio il prodotto, non rimborso i soldi, però sono stato preso in giro e non, quindi ho dovuto fermare quando i prodotti, perché poi la gente ne approfitta, quindi c'è questa parte qua che come dire, devono essere più, conoscere chi produce, direttamente chiamano a me: Salvatore, sai, non è uscito buono questo prodotto, me lo puoi cambiare, puoi rimborsare, come possiamo fare? Ma non ti incazzare perché non volevi mangiare la puntarella, è uscita, non è uscita buona, è così, questo prodotti, una cappuccia, un'insalata incappucciata non è uscita buona, quello, recuperi quello che puoi. Però c'è, cioè, con Mario Vienna, non so chi la conosce, dice: no, lei ha messo la regola, poi perde 10-20%, non può perdere tutto, quindi non rimborsano loro. E io rimborsavo, a un certo punto, cioè, mi sto ritirando perché non posso rimborsare, perché ho lavorato, mi sento preso in giro, no, non si può fare. Però non è che chi ha perso tutto il prodotto verrà rimborsato, cioè viene rimborsato, ma non, se un prodotto è 20%, non è che se uno non vuole lavorare non è che vada a rimborsare perché lo butto, perché magari due foglie escono marce, non va, non funziona così, non sono uno qualsiasi, sono uno vero, un agricoltore vero che ha lavorato per avere un risultato, che poi le condizioni climatiche oggi sono quelle che ci condizionano. Infatti penso che, secondo me, tra un po' si devono coltivare loro, perché tutti quanti accederanno, perché metti come Ciro, cioè, ma la settimana scorsa non c'era il fiore, questa settimana è spiccato, è così, è spiccato, cioè una settimana non è pronta, la settimana dopo non è buono più, è passato. Quindi o si va incontro all'agricoltore oppure non può andare, non si può mettere. Puoi raccontare queste esperienze che hai citato come se noi non sapessimo di cosa stai parlando, cioè dei nomi, cioè che cosa sono? Nicola Ciccarelli, quale? Tutte. Quelle che hai citato di ah, vabbè, di Nicola gruppi, Ciccarelli, l'ho detto. Di Mani nell'Orto, Ciro, Libera, cioè che cosa sono queste? Come noi non sapessimo niente di queste. Ah, realtà. Libera, vabbè, Libera è un'altra coltivatrice che fa anche lei conserve e anche vende come me e acquista i prodotti da me, perché visto che lei fa solo frutta, faccio una rivendita. Ok, sì, lei fa pure la rivendita, non solo fa la rivendita, infatti chiedo scusa, ma io mi invoglio a Libera di vendere i prodotti miei, però le persone, cioè alcuni gruppi vogliono gli agricoltori in prima persona, però io avevo scelto insieme anche a Mario, che poi è andata a finire così, che a me mi piace più coltivare che vendere, cioè nel senso che voglio vendere pure io, perché io non ho paura di mandare a quel paese una persona che acquista, perché ho lavorato, infatti pure con Mario è un'altra realtà. Posso saltare adesso da Libera a Mario, quindi Libera, chiudiamo con Libera, che comunque è anche una rivenditrice, anche una produttrice. Passiamo a Mario, che era un agricoltore, lui nasce come agricoltore, è anche lui Mani nell'Orto si chiama adesso, perché era orto volante, Mani nell'Orto, e nasce come agricoltore e consegna a domicilio, ci teneva i prodotti suoi. Però poi dopo lui si è spostato, come dire, sulla commercializzazione, tra virgolette, consegna a domicilio, e ha trovato me e altri produttori messi insieme, perché lui aveva difficoltà inizialmente anche avere tanti prodotti, coltivando una zona più fredda, e quindi ha messo insieme più agricoltori, quindi poi Mario Infante rimane come consegna a domicilio, è un gas, diciamo, una musara, tra un po' un'associazione che mette insieme agricoltore e distribuisce prodotti naturali, cioè con agricolture alternative, queste sia bio, sia bio non certificato, ma autocertificazione, i gruppi fuori sono sempre prodotti buoni. Poi c'è l'altro agricoltore, Ciro Pirone, che faceva parte del mercato ecosolidale, una persona, cioè, che ci tiene sempre ai prodotti locali, sia italiani, nazionali, esteri, ci tiene a un'agricoltura alternativa fatta in un certo modo, e distribuisce anche lui come gas a realtà diverse, e penso... vabbè, lui è anche produttore di grani antichi, quindi una marcia in più ce l'ha con questa, e quindi questi sono. E poi un po' di persone privati per me. Mi hai fatto esperienze in politica? No, politica in prima persona no, nel senso ho fatto pubblicità, un mese di lavoro a Modena per la campagna elettorale, una lista civica nuova, è stata una bella esperienza, nel senso che ovviamente mi documento, visto che era una situazione lì nuova, là c'era partito democratico, anche se mi sembra buono quando un partito rimane sul territorio per tanto tempo, come dire, comunque trascina verso... trascina tutto il potere verso se stesso, no? Altre realtà non contano più di tanto, ma in politica in prima persona no. E non sei più impegnato in realtà politiche territoriali? No, adesso no, nel senso che non so per domani, però adesso no. Ti piacerebbe far parte di una realtà, nuova realtà di associazione, collettive, di cooperazione? Sì, dipende, nel senso, sì, dipende dove si va, se c'hanno una direzione che mi può interessare, sì, ma poi io sono anche del fare, non del dire, volere, poi magari tanti tirano di qua, a destra e a sinistra, non vanno da nessuna parte, ecco perché, cioè nel senso che il mio punto, con Libera si parlava, cortocircuito freghe, nel senso mi invitava, e, a volte vedo molto dispersivo e quindi non vado, cioè non mi attirano, oggi sono aperto di più, però devono avere... No, cioè nel senso poi sono limitato con i miei tempi, non è che mi vado a fare tutti i mercatini, cioè sono più interessato, posso spendere più parole per questi gruppi, ma non so se in realtà nuova magari mi potrei impegnare di più, una realtà più locale, più quello che magari facciamo noi in questo momento, dispense di Libera, potrebbe essere una cosa fatta in modo diverso, non sappiamo come si evolve, potrebbe essere una delle occasioni nuove. Che ruolo ti vedi in un prospettivo forma di collaborazione? Che responsabilità pensi che potresti avere nella costruzione oppure nella collaborazione in questi aspetti? Non so, questo i ruoli verranno poi... vengono presi quando c'è un indirizzo, dove io sono più ovviamente, cioè nel senso io sono esperto nel mio, ma ho le capacità, sono quello che sta dietro le quinte, tipo con il medico Montano c'è stato un progetto, è venuto a Medicina 33, cioè io riesco a osservare, riesco a dirigere, do dei consigli perché vedo, nel senso che vedo le cose e quindi però devo... si devono presentare, non posso dirlo senza una causa, senza una direzione di qualcosa che nasce, che c'è. Tu penso che hai sentito dello sciopero che c'è stato e di tutte, diciamo, le problematiche che ci sono state nel mondo dell'agricoltura. Cosa ne pensi? Cioè nel senso non saprei nello specifico perché non si capisce mai qual è la realtà, perché là c'erano che dicevano alcuni prendono i fondi, alcuni no, ovviamente l'agricoltore è in crisi perché il cambiamento climatico ti danneggia, un po' come le olive che non ci sono più, la frutta che è annuale, viene una volta all'anno, sì, una gelata, un calore improvviso, se ne cadono e quindi hanno difficoltà, però non credo che ci sia una politica chiara in Italia, non so, perché si parla pure che vogliono mettere, l'estero sta prendendo i territori italiani per mettere fotovoltaica, non so che stanno facendo, e poi ci sono le agricolture alternative, l'idroponica non si fa più sul terreno, non si coltiva, tipo gli agricoltori, gli allevatori stavano facendo protesta perché si parla che in nord Europa ci stanno le stampanti 3D, stampano carne, ma tonnellate di carne, quindi gli allevamenti un po' sono inquinanti ma un po' verranno tolti da mezzo, cioè non si mangerà più carne di animali, quindi non saprei, cioè senso che bisogna vedere come si evolve, ma non si chiari i problemi degli agriozzini. Diciamo che l'ultima domanda è... ti chiediamo, ci sono delle domande che non ti abbiamo fatto e tu ci vuoi raccontare? No, penso che abbiamo detto tutto, secondo me non c'è niente da dire più, nel senso, no, abbiamo spaziato, io mi sono allargato con i rami, quindi penso che non c'è stato, anzi, poi da parte vostra posso fare la domanda, da parte vostra, oppure un domani se volete aggiungere, allora sì, si può aggiungere, perché voi dite, io rispondo, perché come dicevo io sono preparato su tanti campi, perché io la seguo, e infatti dicevo a una ricercatrice qualche giorno fa, e devo compattare su di me perché nessuno sa niente, quindi se accumulo notizie e poi quando parlo con gli altri non conoscono le cose, quindi non so che dire con gli altri, quindi fate domande voi, presenti oppure in futuro. Beh, più che altro non era direzionale verso la realtà agricola e sul mondo dell'agricoltura, per questo diciamo, poi alla fine può capitare che a una persona può sfuggire anche una domanda un po' più tecnica volendo, oppure anche un po' più fatta sul territorio proprio, perché poi ognuno di noi lavora e spazia sui propri territori. Sì, no, poi in realtà io, nel senso, adesso apro una parentesi, sì, perché io comunque sono acerrano di nascita e visto da un, però mi sono spostato a Piana di Monteverno, quindi nessuno oggi, cioè, si rende conto tra gli amici, anche Libera, io sto a Piana di Monteverno, quindi non sto né più ad Acerra né nemmeno a Piana di Monteverno, quindi sto lontano dalla realtà di Acerra, anche se insomma è vicino ad Acerra, quando se mi trovo ad Acerra siamo vicini di casa, però quando sto a Piana io devo venire a Somma Vesuviana, è lontanissima, abbastanza lontano, sono una sessantina di chilometri, quindi voglio dire, in realtà poi territoriale non le conosco nelle specifico, proprio stretto stretto, in linea di massimo, cioè nel senso osservo, vedo gli agricoltori fanno delle cose assurde, apro una parentesi, tipo le patate quando hanno ancora le foglie sono tenere, quindi si per la conservazione non vanno bene, si sbucciano e quindi si fanno i lividi e si fanno nere. E gli agricoltori tagliano l'erba sopra, la patata, cioè le foglie, e le lasciano a sole con gli sbalzi termici, quelle si cuociono e si perdono. Quindi questa era una parentesi per dire la realtà contadina, non so che cosa fanno questi agricoltori, se hanno sta... fanno questa cosa qua, perdono le patate, cioè per farlo diventare più dura la patata, poi la perdono, e quindi mi chiedo che tipo di agricoltura fanno. Questa è rivolta al territorio di Acerra, quello che vedo, quindi non saprei se la gente poi ragiona, riflette, capisce, non so se questi sono dei problemi che osservo, no? Non so se le persone si rendono conto di quello che fanno, non so, cioè nel senso che devono affrontare un disagio perché la patata costa, cioè oggi tira, e non sanno come risolverlo, quindi intervengono con tagliare la patata fresca, tagliarle le foglie, che poi non c'è più la foglia che nutre la patata, ovviamente diventa più dura, però con il calore del terreno si cuoce pure, non è buona per la conservazione, quindi questi agricoltori hanno perdono anche il raccolto. Io mi chiedo, la mia domanda è come fanno, cioè come mai non hanno la capacità di rendersi conto che possono perdere il prodotto, e non hanno le capacità, non so. Perché pensi che non siano attenti a capire le problematiche e a risolverle, oppure proprio per un fatto di... Non lo so, perché, non chiederselo. Non lo so, perché poi non ci parlo, però hanno tutte queste difficoltà, cioè almeno nel territorio, localmente quelli che stanno vicino hanno queste difficoltà, cioè, ovviamente in tutti i settori ci stanno queste difficoltà, e quindi quando come dire, ovviamente, vabbè, nel senso, chi non è come me formato, lui tende a, come dire, a imbrogliare un po', quindi, come dicevamo prima, quell'agricoltore che ci manca il prodotto, questo un po' di furbizia cerca di farla, che poi in realtà cioè vorrebbe poi raccogliere il prodotto magari pochi giorni dopo, il commerciante, perché oggi tutti quanti, per non evitare un prodotto che non è buono, vanno a fare i controlli e quindi alla fine si trova a disagio, praticamente perde il prodotto. Quindi voglio dire, è sempre un fatto di non riuscirsi a dirigersi, no? A fare come meglio va, non sanno. Un po' le stagioni non sono più regolari, quindi loro magari coltivano più tardi, mi sto dilungando, vabbè. Coltivano un po' più tardi e poi, come dire, corrono appresso a questi sbagli fatti, sbagli tra virgolette, perché poi sono le stagioni che non sono più regolari, loro non sanno più che pesci pigliare, cioè praticamente si trovano svantaggiati. Chi non è formato come me parte svantaggiato, diciamo che un po' di svantaggio ci sta. La vedi lunga, in questo caso qua posso dire che la vedo lunga, e quindi potrei risolvere, cioè nel senso, coltivi presto, puoi rischiare tra virgolette, perché magari non ti viene, l'inverno caldo e poi la primavera ti fanno le gelate, là rischi, ma rischi in tutti i sensi, e allora là non si può fare, cioè non si può fare niente. Però almeno un prodotto messo a dimora, coltivato a tempo giusto, puoi raccoglierlo anche quando a tempo precoce, diciamo, è l'unica soluzione. Non, ovviamente, vabbè, poi c'è quest'altra parte, io sempre qua devo dilungare, perché i prodotti costano tantissimi, le spese sono tante, quindi loro alla fine, se perdono se bruciano le patate, hanno perso migliaia di euro, non ne perdono tanta, quindi non sanno più come fare, quindi stanno in crisi, penso. Quelli la crisi è per gli agricoltori che non hanno una filiera, quelli che hanno una filiera o dei contratti, allora forse quelli vanno più tranquilli, ma quelli che non vogliono coltivare così e poi vedono come va, secondo me stanno molto in difficoltà. Io non conosco questi qua, sto parlando di quelli là. Secondo me quelli, un po' la realtà nostra, dalle nostre parti locali, sempre, penso che è un po' un circolo vizioso, stanno in questo modo perché Acerra, diciamo che è un territorio che non fa fatica, anche secondo me, a essere acquistato in prime, no? Perché è sempre un territorio martoriato, no? C'è un nome, questa etichetta che è messa un po' male, quindi penso che fanno fatica, però secondo me con gli analisi, oggi fanno tutti gli analisi, si risolve tranquillamente. Infatti andavano all'estero i prodotti nostri, tra dei fuochi, tutti analizzati, e quindi passano tranquillamente perché poi sono buoni. Ti chiedo io ad esempio una cosa un po' più che non va nelle domande. In realtà tu nel tuo territorio, con le persone diciamo intorno a te, ti relazioni poco? Sì, no, è che ci parla a fare, che non so, che basta di vedere questo tipo di agricoltura, io non ci parlo, che agricoltori sono questi? Che ci vado a parlare? Poi fai fatica, non ci sono mai parlato, non credo, non, cioè nel senso che, non, che poi è chimica, non mi riguarda, diciamo, non... Se qualcuno mi chiede, gli do quando il terreno è secco vanno a concimare invece di dare acqua, e quindi uno inquinano e consumano soldi mentre aveva sete, e poi nell'acqua ci stanno i nitrati, perché loro li usano tantissimi, tutti ci abbiamo i nitrati, anche chi fa bio ti trova i nitrati nell'acqua, quindi potrebbero risolvere il problema irrigando il prodotto, che poi ovviamente capisco che comunque oggi se tu devi mettere irrigazione, comunque ci vuole un operaio, o la pioggia con il gasol costa, e quindi loro cercano di vanno a concimare, magari gli danno un po' di spinta, però non hanno risolto il problema, e quindi non ci parlo, perché comunque sono altre realtà, che non sono mondi diversi, non so che potrei fare, cioè. Però non escludo che se si fa un progetto di portarli fuori dalla chimica, o che ne so, se hanno bisogno di me, perché anche con la chimica ho preso il patentino in passato, sono esperto, cioè nel senso, non gli farei. L'ultima scelta spetta sempre a loro. So che posso fare un esempio, io ho preso il prodotto bio, il verderame bio, andava a un consorzio agricolo, avevo cambiato quello vicino a me, ho detto ma il prodotto tuo non ha funzionato, lui disse vicino a me queste testuali parole, disse io a te ti ho dato quel prodotto, io ho usato di tutto e di più, con la chimica le patate mie si sono perse. Questo è un esempio, quindi un esempio che non riescono a fare, cioè non, quindi si può fare, potrei dirigere anche la chimica fatta poi a modo mio, nel senso mai concimare così tanto, tenerla sotto controllo, e potrei fare anche questo, cioè, ma non ci vado a parlare, se non vengo chiamato non entro in causa con quelli là, ci posso pure dire, ma loro, cioè non è difficile farlo, perché comunque infatti la reporter della RAI, sono privati con una parte della RAI, disse proprio, ma mi devi spiegare, ma quelli con la chimica possono fare a meno degli insetticidi? Disse, se tu coltivi chimico, no, perché il prodotto è più tenero, devi intervenire, come dire, vanno pari passo, la chimica si tira la chimica perché la devo accompagnare, e poi loro spendono tanti soldi, comunque vanno, cioè chi più consapevole magari va a vedere se c'è un attacco di afido o c'è la pronospa, cioè, oppure intervengono a cadenza settimanale o ogni 15 giorni, fanno i trattamenti e accompagnano i prodotti, quindi non badano a niente. E poi, se posso aprire una parentesi, chi va a raccogliere, loro usano la chimica, ma pure chi commercializza fa usare il prodotto chimico, non gli dai il periodo di smaltimento e vanno a usarlo, quindi prendono il prodotto pure avvelenato, un po' l'agricoltore, un po' pure chi va a raccogliere, non so, a un certo punto si dovrebbero fermare, questa è la certezza. Quindi poi chi viene a raccogliere, butta nel terreno, brucia i cassettini di plastica, me li devo recuperare, devo dire dalle a me per recuperarli, buttano plastica nel terreno, pensano che sia una discarica, questo. E poi mi chiedete che ci devo fare, che gli devo dire a queste persone? Non devo essere io, ci voglio un'istituzione che già ha una licenza da commerciante, ce l'ha o non ce l'ha, vanno accompagnati, questi di terreno sono discariche. Se nel tuo territorio vedi oppure ci sono dei giovani interessati al tuo tipo di agricoltura? Ma non lo so, insomma, non si sanno nemmeno giovani, a me, io sto sul territorio, sia locale, mi conoscono, non è venuto nessuno a chiedermi mai niente, che tipo di agricoltura stai facendo, che fai, vi guardano, però niente di che. Va bene, possiamo chiudere l'intervista, è stato un piacere, Salvatore, ti ringraziamo. Grazie a voi. Perché è sempre interessante parlare di certi argomenti. Grazie, buonasera. Arrivederci. Grazie.